diciamo che abbiamo cercato di fare della festa un'occasione per far incontrare punti di vista diversi da quelli delle forze dominanti al governo, ma in parte anche quelli all'opposizione parlamentare, e sono dentro un pensiero unico, si pensi alla guerra, mentre il filo conduttore della nostra festa è sicuramente quello della pace, del cessate il fuoco, della trattativa. Ci sono nomi come Michele Santoro, Pablo Iglesias, Mimmo Lucano, il cardinale Zuppi, insomma, e poi ovviamente anche per la parte culturale Sabina Guzzanti, Ascanio Celestini e tanti altri. Oltre al tema della pace, che sottolineavi essere quello centrale, quali saranno poi anche gli altri temi che affronterete? Beh, innanzitutto voglio ricordare che noi apriremo nel segno della memoria la prima giornata della festa, tra l'altro sarà la chiusura del processo, ci sarà il nostro ospite Paolo Bolognesi insieme a Carlo Ghezzi, il vicepresidente nazionale dell'ANPI, per parlare di stragi e neofascismo, considerato il revisionismo storico che è passato, insomma, dalle vicende del secolo breve anche alla stagione delle stragi e che vede coinvolta l'attuale maggioranza di governo. Abbiamo invitato anche nella stessa giornata lo storico Alex Obel a ricordare l'impegno per la pace di Enrico Berlinguer, anche perché troppi che vengono dalla storia della sinistra sono stati arruolati con l'elmetto della NATO, e abbiamo invitato il console italiano in Argentina e Cile, Enrico Calamai, che è stato soprannominato lo Schindler italiano per aver salvato nei giorni del golpe in Cile centinaia e centinaia di persone dalla repressione di Pinochet. Quindi apriamo con la memoria e poi cerchiamo di sviluppare i temi dell'agenda politica e sociale, lo faremo sul salario minimo e la sicurezza del lavoro, con la presenza anche del coordinatore nazionale dell'USB nella giornata di venerdì. Parleremo di presidenzialismo e autonomia differenziata, parleremo della manifestazione del 7 ottobre con Maurizio Landini, che verrà a presentarla nei suoi obiettivi, e poi ci saranno anche forum su sanità, immigrazione e tutto ciò che ha a che fare col cambiamento climatico, l'alluvione, il consumo di suolo. Insomma, vogliamo mettere al centro e connettere i temi principali di una proposta politica e di riflessione alternativa a quella dell'attuale governo. A proposito di attuale governo, immagino che ovviamente il vostro giudizio sia negativo. Quali sono, come dire, le principali linee che criticate di questo governo? Beh, in realtà c'è l'imbarazzo della scelta, perché hanno vinto le elezioni dopo anni di demagogia sul prima gli italiani, e il primo atto è stato quello di colpire gli italiani poveri, cancellando per centinaia di migliaia di persone il reddito di cittadinanza. Questo è un governo che prosegue sulla strada del neoliberismo degli esecutivi precedenti, ma lo fa anche aggiungendoci una dose di razzismo, di omofobia, di cattiveria che è pericolosa non solo per l'Italia ma tutta l'Europa. La normalizzazione dei fascisti che è in corso da parte anche dell'establishment europeo è molto preoccupante dal nostro punto di vista, perché quello che sta accadendo in Italia, che è diventata la nuova Polonia, è che se sei allineato con la NATO e l'Unione Europea come il governo Meloni, sostanzialmente ti si perdona tutto. Ecco, noi non perdoniamo niente, e tra l'altro segnalo che apriremo la festa con la sera di giovedì con lo spettacolo di Ascanio Celestini su Via Rasella e le Fosse Ardeatine, perché vogliamo ricordare appunto che questi signori hanno messo alla presidenza del Senato un fascistone come La Russa, che ha offeso la memoria delle vittime del nazifascismo e della resistenza. E ricordo che noi abbiamo raccolto più di 100.000 firme per le dimissioni di La Russa. Ecco, noi abbiamo un giudizio complessivamente negativo del governo, come sai non ci riconosciamo nell'opposizione di centro-sinistra, perché su questioni fondamentali a partire dalla guerra e oggettivamente parliamo di un'opposizione alleata del governo, e riteniamo che invece vada sviluppata una proposta politica radicalmente alternativa. Ci vediamo alla festa, ricordo da giovedì a domenica, tante iniziative. Concluderemo tra l'altro con un evento eccezionale, unico per la festa, perché lo spettacolo teatrale dello storico Angelo Dorsi, autore della probabilmente più importante biografia di Gramsci, dedicato a Gramsci, vedrà Dorsi insieme per una sera accompagnato dai Gang, insomma lo storico con la storica band del rock militante italiano.